prima, quando abbiamo vissuto tutti un po' le incertezze del microfono che non funzionava e abbiamo anche visto come abbiamo cercato di fare diverse cose, abbiamo cercato di ricollegare i cavi, abbiamo cercato di vedere se le pile erano scariche o non erano scariche, su questa immagine delle pile scaricano scariche tornerò, abbiamo provato a vedere se dietro erano stati fatti i collegamenti giusti. Voglio semplicemente segnalare queste tre cose, a cui ne aggiungerei una quarta. Qualcuno ha detto andiamo a vedere dietro perché, come dire, l'interruttore generale è lì dietro. Mi sembra di ricordare che l'interruttore generale è lì dietro. Allora, collegare i cavi e valutare se le pile sono cariche o scariche, verificare se l'interruttore generale funziona e cercare di capire se il collegamento iniziale è un collegamento corretto o no. Abbiamo provato a fare tutte queste cose, ci hanno provato con buona volontà. Il vostro relatore domani non a caso parlerà del tema del padre, dal padre ci si aspetta che sappia far funzionare tutta la tecnologia del contesto familiare, ci hanno provato le padrone di casa e poi alla fine abbiamo dovuto prendere una decisione di cui non so se vi siete resi conto che decisione abbiamo preso, abbiamo cambiato il sistema. E mentre succedeva tutto questo e cercavamo di intrattenerci con cavilli e falsi problemi, no? Per evitare che il nervosismo, la tensione, le cose crescessero, io pensavo quanto tutto questo rappresentava una metafora straordinaria di quello che ci diremo tra pochi minuti. Perché una metafora straordinaria? Perché oggi come oggi noi ci troviamo davanti a modelli che ci vengono presentati di famiglia, che sono modelli che dovrebbero rappresentare la nuova frontiera della modernità, che in qualche modo dovrebbero offrire quella garanzia della gioia, della festa, della felicità con cui voi vi confronterete domani con i temi che sono in programma, ma che poi sono anche l'aspirazione del quotidiano, sono quell'alta quota del quotidiano a cui ognuno di noi tende. Quando pensiamo all'alta quota della famiglia, credo che molti di noi pensano alla pace, alla serenità, a un dialogo di condivisione, alla possibilità di quel ritorno a casa a cui tu facevi riferimento così bene e che è per tutti noi quella possibilità di ricostituire un po' le vele, no? Del nostro essere andati per mare durante la giornata, aver affrontato situazioni difficili, complesse, eccetera, e nel ritorno a casa noi ci aspettiamo che il punto di vista che la famiglia assume sulle cose che noi racconteremo sia il punto di vista di, prima di tutto, di chi crede a quello che stiamo dicendo. Non dobbiamo percepire il dubbio, la diffidenza, il sospetto. Ciò che noi stiamo dicendo in famiglia è vero, perché c'è un nostro modo di porci nella vita di famiglia che è l'essere trasparenti agli altri. Anche perché comunque l'esperienza di prossimità che facciamo nella vita di famiglia ci rende in ogni caso riconoscibili e attiva quella capacità di decodificare un comportamento per cui se tu chiudi la porta in quel modo io so già come potrebbe essere andata la giornata. Se tu saluti con quel tono di voce, io già so decodificare che cosa potrebbe esserci dietro. Non so cosa è realmente accaduto, ignoro la fattualità oggettiva delle cose, ma mi è totalmente trasparente il vissuto soggettivo di quelle cose. Non so cosa ti è accaduto, ma in un certo senso riesco ad immaginare come tu lo hai vissuto. Quindi quando tu mi racconterai quel fatto, io so se quel fatto è stato per te fonte di tensione, fonte di preoccupazione, fonte di soddisfazione, fonte di gioia, fonte di speranza. So già qual è, come dire, la lunghezza d'onda lungo la quale debbo pormi per essere in sintonia con te. Perché l'obiettivo profondo in una vita di famiglia è verificare che la sintonia ci sia, predisporre il mezzo per cui in questo modo ciò che noi ci diciamo diventa, a ciò che ci diciamo con le parole, ma anche ciò che ci diciamo con i gesti, ciò che diciamo con il comportamento, diventa subito chiaro. chiaro, ma non tanto chiaro perché io non posso avere la presunzione di sapere esattamente cosa tu mi dirai, posso avere un'altra speranza e un'altra presunzione di sapere come io debbo pormi mentre tu mi racconterai questa cosa, mentre tu mi dirai quello che è accaduto. Guardate, è un linguaggio estremamente complesso, se voi ci pensate, che quasi istintivamente cerchiamo di mettere in programma ogni giorno, mille volte al giorno e comunque per tutti i giorni della nostra vita. Eppure se voi cercate di descriverlo, vi rendete conto di quante parole c'è bisogno. C'è bisogno di tante parole per capire queste cose che ci dicevamo prima, per capire se le pile sono scariche, per capire se il contatto è giusto, per capire se l'interruttore generale funziona o non funziona. Ma io lo devo sapere, perché altrimenti quella voce non mi arriva. Altrimenti quello che tu mi stai dicendo è come se ci fosse una sorta di cortina che impedisce che io capisca di che cosa mi stai parlando. Evidentemente noi abbiamo scelto in questo momento, proprio come inizio di questo convegno e anche in qualche modo come tema fondamentale di questo convegno, il paradigma di coppia. Ma è chiaro che quando noi pensiamo alla coppia, e vorrei che questo risultasse chiaro in questa nostra giornata, pensiamo prima di tutto alla coppia marito e moglie, ma pensiamo all'infinità delle varianti di coppia che si creano in una famiglia. La variante di coppia può essere madre figlia, può essere padre figlia, può essere padre padre, può essere madre madre, può essere in una dinamica in cui nella famiglia, sì, guarda, è il capolavoro della famiglia, che nella complessità delle relazioni che si intrecciano, in senso longitudinale, il famoso patto intergenerazionale che collega come minimo tre generazioni, i nonni, i genitori, i figli, come minimo questa genitorialità che attraversa le generazioni, riflette la complessità di un contesto sociale, perché tutti noi sappiamo, ci dicono i sociologi, che ogni 5 anni, adesso si tende a pensare che sia più veloce questa sostituzione, ogni 5 anni cambia il contesto sociale di riferimento. Quello che è oggi è diverso da quello che c'era 5 anni fa, e quello che è oggi è diverso da quello che sarà tra 5 anni. Questo lo dico sempre per l'umiltà di chi deve dare consigli di orientamento, consigli in qualche modo di contesto nel quale muoversi, no? Per esempio, faccio un esempio tipico da facoltà di medicina, lo studente di medicina che si è iscritto questo anno, quando si laureerà tra 6 anni, troverà un contesto economico, sociale, scientifico, clinico, organizzativo e pure politico totalmente diverso. È inutile che io gli dia categorie per orientarsi in questo contesto sociale. Io devo assumere per lui che questo contesto sociale è semplicemente uno dei modi possibili. Quello che è certo è che quello con cui lui dovrà confrontarsi tra 6 anni è diverso da questo. Ma la stessa cosa succede in famiglia. La stessa cosa succede in famiglia. Quando uno dice ho 2 figli, uno che ha, poniamo, 5 anni, che adesso va in prima elementare, e uno che va adesso in 4ª ginnasio o in 1ª liceo classico, quello che volete. I contesti, dice, ma noi siamo uguali, mio marito e io siamo uguali, abbiamo utilizzato la stessa scala di valori, ci poniamo nello stesso modo. Non è, prima di tutto, falso. Non ti poni nello stesso modo, e la stessa scala di valori a cui tu fai ricorso la stai declinando in un modo diverso. E comunque i 2 figli si confrontano con un contesto sociale che è totalmente diverso. Quindi noi ci troviamo in una mutevolezza di situazioni in cui ciò che in realtà conta sempre molto e non può mai essere sostituito è l'autenticità della capacità di ascolto, la trasparenza dello sguardo con cui io valuto le cose. Cioè non c'è mai niente che io possa considerare, come dire, già avvenuto. Sicuramente è già avvenuto, solo che è avvenuto in un modo diverso. Quindi non c'è una categoria antica con la quale io defino questo. Questo vale anche nella vita di famiglia. Cioè la relazione di coppia, che in qualche modo si poteva snodare 5 anni fa è diversa dalla relazione di coppia, così come si snoda oggi. E mi riferisco in questo momento, e questa è l'attenzione che vi chiedo di porre, tra le nuove coppie che si formano e che devono rispondere a criteri di sollecitazione di contesto molto diversi da quelli che sono i criteri di sollecitazione di contesto a cui probabilmente abbiamo risposto noi, ma anche quella riproposizione del legame di coppia all'interno di una relazione già formata. Chi pensasse che lungo l'arco del matrimonio, oggi si dice che i matrimoni non possono durare così a lungo, perché molto a lungo vive l'uomo, anche ammettendo che ci si sposi più tardi del solito, intorno ai famosi 35 anni che è assunta come l'età media del matrimonio, l'età media a cui ognuno di noi è destinato a vivere sono perlomeno gli 85 anni, con tutti gli sforzi che la medicina sta facendo per allungare quell'età. L'esperienza di vita matrimoniale che io devo fare come minimo impegna 50 anni. Noi come pensiamo alla relazione di coppia? Quasi sempre la posizioniamo all'inizio della vita di coppia, oppure la spostiamo come attenzione nel momento della criticità della vita di coppia. Ci dimentichiamo che la vita di coppia più straordinaria da vivere, guardate, è proprio quella che comincia quando va in pensione. Su questo non ci sono quasi studi della dinamica della vita di coppia in quell'arco di età che sono i 65-85, 20 anni, su cui ben poco si è concentrata l'attenzione, 20 anni in cui peraltro si fanno le maggiori esperienze di malattia. Ovviamente è normale, se ti è andata bene, se ti è andata bene, se no l'hai già fatta prima, se ti è andata bene. E quindi di che cosa? Della relazione di cura, e quindi della capacità di adattamento, e quindi della generosità del tratto, e quindi della fantasia, della creatività del quotidiano, perché probabilmente fino ai tuoi 65 anni la vita te l'organizzava qualcun altro. Te lo organizzavano i ritmi del lavoro, te lo organizzavano i figli, te lo organizzavano delle necessità concrete. A questo punto all'improvviso hai una prateria davanti a te e la devi riempire di senso e di significato. E noi stiamo cominciando ad assistere a una cosa che spero non vi faccia sorridere, ma vi assicuro che è un dato sociologico reale, di famiglie che scoppiano dopo 30-35 anni di matrimonio. Ma è impazzito. Quasi sempre lui che impazzisce, ma comunque. Ma è impazzito. Uno dice, ma com'è possibile? Poi quasi sempre impazzisce, vabbè, comunque, adesso non voglio. Però voglio dire che la relazione di coppia da custodire nella specificità del cambiamento, dell'età, del contesto sociale, del momento psicologico, va mantenuta sempre. Allora, la prima attenzione è che i tuoi occhi, gli occhi con cui tu guardi la persona, che presuppongo che sia la persona che ami, le orecchie con cui ascolti la persona, che presuppongo possa essere la persona che tu ami, devono essere occhi e orecchie. Quindi sto parlando di un'esperienza sensibile proprio, da mettere in gioco non come fantasia mentale, ma come capacità reale. Devono essere sempre in gioco. Ci vuole, come dire, quella manutenzione dello sguardo, che se volete è quella che noi facciamo quando cambiamo gli occhiali, oppure quella che noi facciamo quando puliamo gli occhiali, oppure quella che facciamo quando sostituiamo gli occhiali da sole con gli occhiali, che so io, con le lenti chiare. Non abbiamo bisogno di guardare, di vedere, di adattare il nostro sguardo per essere certi di capire cosa sta succedendo alla persona che c'è accanto. E la stessa cosa vale per la capacità di ascolto. Ci sono coppie che dopo un po' di tempo non si guardano più e non si ascoltano più, a tal punto che non si rendono più nemmeno conto che una sta avanti all'altra. Avanti è un avanti fisico, non vuol dire necessariamente un avanti spirituale, un avanti intellettuale, un avanti sociale. Sta avanti all'altro 20 passi, ti giri e non c'è più. È come quando stai camminando pure la strada, stai parlando e a un certo punto non c'è più. Oppure stavi parlando al cellulare, a un certo punto è caduta la linea, non c'è più. Non c'è. Quello che tu hai detto non ha raggiunto la persona. Ed ecco quindi che nella relazione di coppia la custodia, che è la custodia del cuore, ma non è solo la custodia del mio cuore, attenzione, è anche la custodia del tuo cuore. ma tu lo custodisci questo cuore dell'altro e lo custodisci trasferendogli quella consapevolezza che è importante per te, perché è importante per te nell'ascolto, è importante per te nello sguardo, è importante perché ci sono una serie di antenne che vibrano e che ti dicono cosa sta succedendo in quella testa, in quel cuore, in quella mente, ma anche in quel corpo, con le sue stanchezze, anche con i suoi malesseri.